verrà, ma è solo un attimo che il tempo porta via. Sarà che siamo fragili nella malinconia. Un sospiro vola su, ritornare indietro e poi ricordarsi un angelo che adesso non c'è più. Tante volte ancora nei sogni delle notti e poi rivivendo gli attimi saremo ancora noi. Forse altri momenti a dirti cosa sia, l'angoscia oppure un battito ti porteranno via. Scenderà la sera, sapere che verrà, che arrivi solo per chiedere alcune verità. Se lasciati soli noi, un motivo ci sarà. Noi vogliamo credere a un'altra verità. Ancora torna quell'attimo e il tempo scorre via. Non perdersi nel piangere o momenti di follia. Uno sguardo ancora su, un momento e poi vedrai, sentirai il tuo angelo, nel cuore tu ce l'hai. Per non sentirsi soli, tante volte ci sarà, avere colto un attimo e il vuoto sparirà.